Машина Volvo, лучше поговорить, до светофора доехал уже? Хорошо, нормально тогда. Давай, счастливо. Attenzione, sul binario 10 c'è qualcuno? Attenzione, binario 10, c'è qualcuno? Attenzione, binario 10, cambio! Ora, attenzione, canale 10, cambio! Attenzione, binario 10, cambio! Ora, ora, attenzione, binario 10, cambia. Ora, oh, oh, attenzione, binario 10, cambia. Oh, ora, 1, 2, 3, prova, prova. Oh, oh, oh, no. Ora, ora, ora, 1, 2, 3, oh, oh, sa, sa, sa. Ora, ora, ora. Ora, ora, 1, 2, 3, prova, cambio. Ora, ora, ora, ora. Ora, ora, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Ora, ora, ora. Attenzione, binario 10, cambio. Ora, ora, ora. 1, 2, 3, prova, cambio. Oh, oh, 1, 2, 3, prova, prova, cambio. Ora, ora, ora. Attenzione, binario 10, cambio. Ora, ora, ora, ora. Ora, ora. Attenzione, 10, tutti muerti. Attenzione, binario 10, cambia! E avanti! Ciao Gianni! E chi sei, Marco? Gianni! Ah, Lucrezio, sì! Dove sei, Gianni? Sono andato in banca adesso e sto tornando verso il quadrato. Fatene dare un po' anche per me, capo! Pochi ve ne sono rimasti, Luca. Adesso la vita è cara, cara, e i soldi rimangono pochi. Se ne stai mettendo in banca del giacigliai, tu. Tu piangi troppo. Sì. Andà bene, questo momento, piazzale Segni. Come sto arrivando con l'antennino corto, cambio? Ottimo segnale, ottima radio, capo. Io che sono basso qua, piccolino. Ma c'hai troppo checco, c'hai troppo checco. Guarda adesso, Gianni. Adesso va meglio, dai. Cava cava, cava. Eccoci qua. Era un po' che non lo usavo questo apparecchio. Vai bene, capo capo. Questa, Luca, è quella famosa antennina che avevamo ordinato da internet, che è polacca, piccolina ma sincera. Perché l'hanno riempita di vodka. Ah, la possono aver riempita in quello che vuoi, a me non me ne ha fatto nulla, è interessante chi si intende avere. Questa qua funge, perché anche da fuori mi sentono bene, anche dal ghero, da tutte le parti. Come lo facevamo con i sartellone che mi ne uscito la saluta, ma ha ammaccato anche la macchina, va la graffiata sulla cappotta e due ammaccature piccole piccole, ma me le ha fatte, come è caduta. E poi non mi potevo fermare perché non c'era un posto per fermarsi, capito? Meno male che non hai fatto male a qualcuno, davvero, le antenne così lunghe. Ma adesso ci sono anche quelle a tre ventose, quelle non le stacchino. Io c'avevo quella base magnetica, quella da 120, quella grande. E non stavo manco camminando, era 90. Questa qua puoi correre e non si stacca. Perché è corta. Un attimo già. La base è piccolina ma è grossa, capito? Deve essere che ha più aderenza. Chi è là? ancora funziona. C'è sempre, ricordati che c'è sempre il custode qua. Ah, mi adesso l'ho acceso, anzi bugia, era volume basso, dai, perché l'avevo un bel spento. Sta andando, sì, bene. Sempre bene, bene. E io come vado? Sono al quadrato, dai, sono andato a fare delle commissioni, ho messo l'antenna in macchina. E te ci avresti venuto anche tu con qualche superstite. Sì, va benissimo già, è grande. E questa qui è quell'antenino, quello che mi aveva consigliato Salvidio, che l'ho preso da fuori. No, passaggio. 1, 2, 3, 4, 5. Sì, sul più del 30. Fatti rugonti. E sono qua al quadrato e sono liscio, non sono, non ho né lineare, niente, niente. Proprio liscio come l'olio. No, una bomba già, una bomba, anche io sono liscio. Cappa, e anche tu c'hai una bella radio forte, forte. Si sente benissimo. Vabbè. Speriamo che entri qualche d'un altro. L'altro giorno c'era, dice che c'era tutta la greffa. Sono entrati tutti. Io me la solucionavo con questo caldo, che cazzo fai? Me ne esco un po'. E anche io sto facendo così, ma ne sto uscendo la sera, anzi, me ne esco verso le 9 e poi rientro tardi, capito? Quindi mangio presto e poi me ne esco. Caldo ce n'è, perché c'è l'aria attaccata. Cosa? Hai l'aria condizionata attaccata. No, no, ho messo, ho abbassato dei due finestrini e anche se c'è il sole passa l'aria e si sta bene. Ah, scappo. Che bello, bello, tutto ok? Sì, aspettiamo delle risposte di lavoro per settembre, speriamo. Ah, ah, ma quella dove sei pagano, ah, quella, quella ditta dove, che sei tu? Ma la volta di là. Ma non danno nulla? Quando fanno le feste, sì. Cosa? Non ti ho capito. Quando fanno le feste, sì. Ah, vi pagano, capito. Mi pagano la giornata, vabbè. Però lo sai cos'è? Che quel tipo di lavoro di volontariato lì ti crea un po' di problemi. Perché secondo chi trovi si gira, eccetera. Lo sai che è al comandante di un'altra associazione sempre che fa quel tipo di cose, gli hanno bruciato la macchina. Non ho capito. Ho detto che fare quel tipo di volontariato ti porta a situazioni poco, diciamo, poco raccomandabili con certe persone. Al comandante di un'altra associazione di volontariato che fa quel tipo di lavoro lì con i cani, gli avevano incendiato la macchina. Vabbè, aveva incendiato la macchina. Perché si è attaccato con questo casanzino, per il cane, perché l'ha lasciato libero senza museruolo e senza guinzaglio, e lui gli ha detto cose, ha detto che tu vai a chi si mia zia, e ha cominciato a fare prepotente e cose. E poi deve essere, si è informato, non lo so, dopo un po' di tempo gli hanno bruciato la macchina. Non lo so. Già, dammi qualche minuto, quando lo sgabuzzino a prendere il coso, il... Ma vi tratto che devo fare un paio di buchi in un coso, in un supporto, cioè non un supporto, un piede del ventilatore, perché l'hanno rotto, cerco di sistemarlo, è di Michela. Invece a me mi avevano dato un lavoro, ma non ce la faccio, è troppo pesante, a mettere la staffa di un televisore, montare la staffa e poi metterla attaccata al muro. E praticamente sono andato a vederlo il lavoro, ma è troppo pesante, il televisore di chi si manni manni, e come fai da solo? In due si fa quello, se ti aiuta il padrone, so si fa in due, ma che è un amico tuo, No. Allora, basta per un maledetto, io c'ho tutto, c'ho trappolo, tassino, c'ho tutto, tutto. Facevi un prezzo, ci dividevamo le spese, ma se lui piazza una staffa, ma c'ho un livello, fa quattro buchi, poi bisogna vedere se il muro è buono, attenzione, bisogna sempre se il muro è buono. Una volta che piazzi con le roba lì, ma c'ho anche i tasselli buoni, Si faceva, si chiedeva quello che si doveva chiedere. Il televisore è ancora in terra, per perché lo deve piazzare. Posso chiedere, lui se è ancora intenzione di farlo e ti faccio sapere. Fammi sapere, andiamo, una mattina, se vuoi, me lo faccio, vediamo un po' il lavoro, cosa c'è da fare. Il televisore bisogna piazzarlo in due, perché se è grande, viene male da solo. Più che altro chi sa staffa, tutta piena di bulloni, di cose, bacari dai, e di quelle staffe grandi. Sì. Glielo posso dire, dai, al limite vengo a darti una mano io, dai. Già si fa. Aspetta 2 secondi, arrivo subito. Ora, attenzione, binario 10. Attenzione, binario 10, cambio. Già, magari d'inverno si ripopolami la frequenza. Ma dice che l'altro giorno c'era un bel DJ. Boh, lo so. Lo si inventano tutti in casa e magari l'accendono alla radio, capito? Cavolo. Aspetta, devo usare il trappo un attimo. C'è l'abitatore, ho proprio di buchi. Scappa. Allora la chiamo quella amica mia. Eia, ho tutto. C'ho tutto io, tasselli. Poi bisogna avere la punta del trappano, se è troppo grande mai si compra, non è un problema quello. Ma adesso c'ho tutto. E anche io punto. Punti a muro? Eia, penso di sì. Penso che io non le riconosco, lo sai. Ma dovrebbe essere a muro, sono quelle chiare, quelle con, come si dice, alluminio, dai. E devo avere la testa, capito, un po' più larga. Beh, chiamata di nuovo messa. Non l'ho più sentita l'altra volta che sono andata a prendere un altro soccorso, non l'ho più sentita. E anche io. Sei a lui? No, a disturbarlo. Non è che ne volta a voi. E adesso a settembre fanno l'intervento. Non sono cose belle. No. Cava. Adesso sto scendendo verso casa, fra poco ti spacco il baracchino. Ora sono al ponte nuovo, il segnale è aumentato. Fai. 1, 2, 3, 4, 5. Sei in mezzo, 3, 3, 0. Sono sopra ancora, non sono vicino a casa tua. Ora, attenzione Luca, se mi ascolti. Ehi, amico, ci stavo a soppiede, poi ci sono riuscito, dai. Metto un paio di fascette, 2 buchi, lo trappano. Cava. Ah, le stai aggiustando il ventilatore? Sì, al piede. Ciao Pompo! E dov'è Pompo? Un bip ho sentito. Io non ho sentito niente. Attenzione Luca, mi senti? Chi è? Dici di Masso. Attento Pompo, non ti puoi dirlo più un cambio. Ferrabbi. Attenzione Pomponio, se ascolti il doppio run che chiama, cambio. Ma ti sento già. Ma io ho debiti da verso, col tempo. Sei tutto tu. Il baracchino è mio, ma non sono io che ti stavo chiamando. Come la ascolti, Luca? Male. Brava, guardi Luca. Luca. Antonello, mi senti? Aspetta che sto usando l'abitatore un attimo. Io che sento sotto la buia che ti ascolto. Adesso ho messo le cuffie, vai. Ehi, a capa, io sto arrivando bene, 9:10, sera di 5. Ehi, capa. Attenzione, Luca, se ascolti qua, Leoncino, cambia, eh? Va bene, furgoncino. Ehi, buonasera, 7351, cambio. Dove sei? A casa sono. Arrivi bene, cazzo 9:30. 9:30 ti arrivo, no? Siamo in Italia, siamo vicini, Luca. Oh, aspetta, sto facendo un lavoro, riprendo subito, se no arrivo con piedi. Vabbè, fai tranquillo, Luca, non c'è problema, va. Cappa, Giuseppe, dove dici se Giuseppe? Ok, futuro. Fabio 5, perfetto. Va bene. Avanti doppio zoom. Dai, io sono arrivato, vi saluto tutti cordialmente, dai. Sono arrivato a casa. Ciao. E ciao Gianni, ci sentiamo. Buon tutto, alle prossime. Ciao. Ciao Luca. Avanti Giuseppe. E un ciro. Dimmi. E allora cosa stai combinando? Sono qua. Sto facendo tutto a rondine scendo. Cos'hai toccato? Hai votato? No, perché? E c'è un zio. Non ho capito. Uno zio c'hai, siete un rotatore. No, c'è la pentola, la bomborina, quella del fuoco. Che stava funzionando. Ah, la pentola per i pescati. Guarda. Come fate se siete un barocco molto piccolo? Guarda questo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adesso va meglio, non si sente più. Voglia. Adesso già sembra migliorato un po'. Fatta. La vedi Antonello? Non sei giù con quell'acqua qua là, che ho fatto, il tuo apparato. Mi è fatto, io resto a sentirti. Con l'altro, no, non ho capito perché. Con questo apparecchio entri nella TV. Roberto, con questo apparecchio che tu mi hai dato, ti riesco a sentirti. Con l'altro apparecchio, quello che è il mio, quello là, non riuscivo mai a tirarti fuori. Ah, Roberto, strano. Comunque. Perché questo mi sembra strano, mi sembra un bel strano. Forse perché questo è molto più potente, questo dell'altro. Questo è molto, è totalmente diverso da quello dall'altro, te lo credo. È come avere una 500 con un Ferrari. Ho capito. Ma ne stavano vendendo uno, 140 euro, ho visto su Facebook. Bellino, Ma ci voglio i soldi, bello era quello che ti ho detto io, 120 euro, quello che ti ho fatto vedere, se non c'è più, quello che lo rimettono, così me la prendo, quello che è bello davvero, cioè quello l'AVDS, c'è la batteria che lo prendo da passeggio e gli puoi lanciare l'antenino con lui e anche l'antenna esterna. Capito? Aspetta che diminuisco il watt che ci stavo uscendo fuori, stavo sforando più di 50. Ecco, te l'ha portato quell'acqua qua là, non so come si chiama, quello lineare grande, a riparare. No, non mi ha portato niente. Sto cercando di mettere a posto quel baracchino grande, quel Lirri, spero di sistemarlo. Capito, adesso vorrei attivare il cambio di potenziometro dello squelch, vediamo un po'. Non ha capito. C'è un ala 48. Aspetta. Colt. Che bellino, è brutto. Ti chiederebbe una cosa per io, non lo avete colto. Due tre pianeta. Lecce sui merchioni, lo sai. Non ho capito. Ha detto che devo avere prima e non va a mettere l'ex su Marchioni a Predanieta e venne nuovamente questi capi tutto quanto adesso com'è vado a vedere un po' com'è la situazione lì. Ho capito la nostra quando va ci andiamo vediamo un po' se vede cavi, barattini, cose del genere, i componenti specialmente mi interessano. E non devo andare a fanculo a cercare le cose, cazzo, aveva vostro. E non c'è nulla a stasera, non c'è niente il fusaro, non c'è nulla il polino. Sembrava in Corsica, sembrava. Questo forse ci dobbiamo far arrivare la roba da fuori. E appunto per quello. Sentiamo dopo, dai. E gli raccordo dopo, se mi è arrivato un massaggio, dopo.